Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccomi qua, negli studi di Milano, di Radio 24, Milano, di Radio 24. Gli studi... Abbiamo capito, Milano, sei tornato a casa. A Milano, a casa, e ritorno come a casa. Come stai a casa, sei contento? Beh, ma come tutti, né? Ritorno a casa, un momento importante. Quindi... Ti manco? Sì, un pochino, dai, un pochino mi manchi. Mi hai cotto la sprovvista, la classica domanda. Senza uscita, avessi detto no, non parlavo più per le due ore di trasmissione. Dicendo sì subito, ah ma allora c'è del tenero. Quindi sì. Non c'era soluzione. Sì, ho fatto una piccola pausa c'è che in radio... Ecco, quel magari... momento, no, quella sospensione che già ti denuncia, ti autodenuncia. Sono le 9 minuti e questi sono i funamboli, signori. Siamo in diretta su Radio 24, c'è tutta la redazione schierata, Peter Bescapè in regia, il nostro Lorenzo Nesta, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, è entrato in studio anche il funambolo Leonardo Manera, c'è Veronica Gentili, Leonardo a Roma, c'è Alessandro Cappini? Sì, sì. Io vado sempre così a tentativo perché non, vai, è l'unico che non vedo fisicamente. Ne senti la presenza. Che è la regia di Roma. E allora, signori, oggi abbiamo tanti temi. Veronica, non vogliamo abbandonare il tema statuto speciale, nel senso che no, è talmente... No, ma infatti, come l'hai trovata questa Lombardia tornando ieri? Era tutto diverso? Uguale. No, è tutto uguale, ma in Veneto invece hanno chiesto lo statuto speciale, questo l'ha ma fatto Ma ti hanno Zani, chiesto i documenti per rientrare... Non ironizzare, eccola, vuol subito ironizzare su questa cosa. Guarda che oggi Mattia Feltri, sì, in prima pagina della stampa, dà delle cifre, numeri, il saldo, il residuo fiscale della Lombardia, cioè la differenza tra quanto si versa e quanto riceve, negativo per 54 miliardi di euro l'anno, il Veneto 15 miliardi, anche l'Emilia Romagna 18 miliardi, il Piemonte 8 miliardi, mentre invece regioni come la Sicilia ricevono 10 miliardi in più di quello che versano. E così la Sardegna, Campania, anche se Calabria, la tematica 5, si è che si è accesa è quella se impostare tutto attorno al residuo fiscale poi non rischi di diventare un conflitto tra regioni, perché poi il discorso che un è po' che è così, un anche po' la è Lega così. Si trova adesso in una posizione un po' scomoda e un po' incresciosa, perché da un lato c'è la spinta sovranista e sappiamo e conosciamo salviniana, e invece un ritorno un po' al federalismo, alla vecchia incresciosa, ascoltatori, ha detto incresciosa, utilizzo ogni tanto per cercare di elevare, no, il livello della tua dialettica, utilizzo parole quale incresciosa e divisivo. No, comunque, certo. Questo per dire che con la spinta al federalismo è un po' un ritorno alla Lega di Bossi, e questo anche per Forza Italia è un po' una sponda, cioè argina allora, un po' la figura di Salvini. Io sono contro gli statuti speciali per tutte le regioni, quindi io li toglierei dalle 5 regioni dove ci sono, quindi non è che la ricetta può essere per me uno statuto speciale in più. Peraltro bisognerebbe cambiare la Costituzione, e non si riesce a cambiare la Costituzione per niente, neanche col referendum. Soprattutto quindi, lo statuto speciale non può uscire dal cilindro dopo che si è fatto un referendum sull'autonomia, sul maggiore potere alle regioni, questo, dicendo hanno una serie chiesto, di cose. Hanno chiesto, come dire, 23 tavoli, se non sbaglio, su cui cambiare, e su queste uno può dire uno dei tavoli deve essere questo. Non è che se non lo dice prima. No, però se in realtà... ne discuterà, anche se il fronte non è compatto nemmeno all'interno della Lega, ma perché no, lo stesso Maroni oggi dice di essere caduto dal pero con questa richiesta, non se l'aspettava e non era questa l'ambizione. Tantissimi sindaci leghisti stessi dicono: noi avevamo delle esigenze molto più terra-terra a livello di autonomie locali. Io non dico che quella sia la soluzione, visto che non mi piacciono gli statuti speciali, non ne vorrei uno in più di certo. Però il problema c'è, il problema di queste cifre, il problema anche di 60% di veneti che sono andati a votare. Comunque chiamateci, 800. Ma il problema è anche, ma la Lega al sud, se andiamo avanti con questo tipo di dialettica, chi la vota? Vabbè, ma questo sarà un problema della Lega. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci, oppure 349 238 6666 Però Veronica, noi dobbiamo partire da un'altra questione di soldi. Da un'altra questione di soldi che riguarda i pensionati. No, però scusami, io volevo parlarti un attimo di Pisapia, perché ho letto che fa questo incontro l'11 novembre per vedere se si riesce parte, di nuovo a mettere si insieme parte, la sinistra. Si parte, si parte. Man, it's been too much time. Quando è che è l'incontro, scusa Veronica? Vieni a Roma. Allora, parlavamo di pensionati, novembre. Dicevamo. Volevo dire questo, sono certa che tu i ragazzi li manderesti tutti quanti, eh? Questo è l'argomento, si presta. Faresti un bel pulmino e li manderesti tutti in Portogallo, allora, vero? Allora, Dario Di Vico ieri sul Corriere della Sera ha fatto una interessante doppia pagina, un'inchiesta, per raccontare che, e l'abbiamo già fatto qui questi microfoni, dei tanti pensionati italiani che a un certo punto della vita decidono di andare nelle zone, nei paesi dove vengono trattati dal punto di vista fiscale meglio. Il Portogallo è quello che tira di più perché fa anche caldo, è un bel paese, eh? Le Canarie con la Spagna, ma anche in Bulgaria vanno, in Tunisia, Malta. Malta è tra le nuove, Cipro. Sì. Cipro, sono che quei hanno paesi. Una serie di agevolazioni, tra cui quella climatica, viene in primis, che è anche una delle ragioni che porta all'argomento di oggi. Per cui, come rendere competitiva l'Italia in questo senso? Come attirare finalmente anche qui dei pensionati che dai freddi paesi del nord, dalla Scandinavia, decidano di venire qui? Quindi, la famosa cosa di andare, di migrare come gli uccelli, andare a svernare, c'è da sempre. E se a questo poi si sommano delle agevolazioni fiscali cospicue, importanti, come accade nel Portogallo, per esempio, per 10 anni le pensioni non sono tassate. Cioè 0%, non so se nulla. Ma infatti si leggeva in Italia come si fa a rendere tutto più attrattivo. Guardate, di fronte a un sistema che in maniera perfettamente legale il Portogallo dice zero tasse per 10 anni, vai a essere più attrattivo. Però vogliamo farcelo raccontare da chi in Portogallo, per esempio, c'è stato e c'è andato e lì è Eugenio Parise, che salutiamo. Buongiorno Parise. Buongiorno Milan. Originario di Bracciano, se non sbaglio? Sì, vicino a Bracciano, sì. Vicino a Bracciano, però è da quanti anni? Pare qualche anno, almeno tre. Tre alle Canarie e circa 2 in Portogallo. Oh, 5 anni. Tra l'altro lei è amministratore di un gruppo Facebook, Pensionati Uniti, all'estero. All'estero. E quanti è siete? Di un'associazione pensionati italiani e connazionali all'estero. Siamo circa 3.000. Sta in Portogallo ora? Adesso sono in Portogallo, nel sud, nell'Algarve. Ah, e come si sta? Sentiamo già una voce. Molto bene, molto bene. Come si vive? Bene? Molto bene, sì, davvero. Soprattutto da un punto di vista ambientale e relazionale. C'è tranquillità, c'è serenità, c'è sicurezza. E non si pagano, e non si pagano le tasse. E non si pagano, e non si pagano le tasse, che non è secondario, diciamocelo francamente. Possiamo farle un po' i conti in tasca a Parise, o mediamente, se non vuole dire. Cioè, quanto si è rivalutata la sua pensione col fatto di non pagare le tasse? Di tutta l'IRPEF, integralmente, comprese le tasse, chiamiamole tasse regionali e locali. Quindi siamo intorno al 35%. 35%, capito? Quindi Veronica, lei immagini, per pensioni medio-alte, la grande attrazione è stata ed è quella dei pensionati centro e nord europei, che hanno, insomma, pensioni elevate, tutta nell'area privata, naturalmente. Stiamo parlando solo di pensionati di provenienza da aziende private. Gli ex INPDAP non sono... Sì, esatto, questo è bene dirlo. I dipendenti pubblici in quasi tutti gli stati non possono farlo. Possono andare solo, credo, in Tunisia, perché lì Tunisia, che nasce giustamente, l'ho detto con Craxi, proprio, è la verità. È Craxi hanno aggiunto Senegal e da 2 anni il Cile. Ora, in Senegal non ci va nessuno, francamente. Il Cile è un po' lontano. Comincia a essere complicato. Rimaneva l'Australia, ma ormai ci sono tali impedimenti di carattere fiscale, tipo una golden tax di $500,000 di deposito, insomma non li vogliono i pensionati perché hanno pochi soldi. No, quindi stiamo parlando di pensionati privati, sì, devo dire che i dipendenti pubblici hanno fatto credo una causa che è pendente. I dipendenti pubblici stanno facendo una serie di ricorsi, noi li stiamo facendo come gruppo, per equiparare appunto la posizione degli ex INPDAP a quelli dei cosiddetti, come me, INPS pure. Perché c'è una differenza sostanziale, cioè gli ex INPDAP non possono defiscalizzare, cioè non possono ricevere la pensione al lordo, e in tutti gli altri paesi, esclusi quelli di cui abbiamo parlato, pagano regolarmente le tasse, come ad esempio le Canarie, che sono Spagna. Le tasse sono leggermente inferiori, hanno un tetto non tassato di circa 12.000 euro, quindi è più vantaggioso. Non enormemente, ma più vantaggioso. Tra l'altro, Veronica, aspetta un attimo, introduciamo un altro ospite, che è Carlo Quipotti, titolare dell'agenzia Nuova Vita, ad Altavilla Vicentina. Vicenza si occupa proprio del trasferimento di pensionati. Buongiorno Quipotti. Dicevi, Veronica? Buongiorno. No, io volevo farmi spiegare un po' il concetto, che sempre perché gli inglesismi vanno per la maggiore, di questa silver economy che ormai è imperversa, cioè tutta l'economia legata alle persone in pensione, alle persone di età avanzata, che in realtà sono molto importanti sul mercato attuale, perché esiste il cosiddetto invecchiamento attivo, cioè persone che hanno un'età per cui non sono più al lavoro, ma di fatto sono attive a tutti gli effetti. Sì, sì, sì, effettivamente il sessantenne, sessantacinquenne di oggi non è certo quello di 30 anni fa, per cui sono persone giovanili. Di anziano hanno molto poco, no? Hanno molto poco, esatto. Guai a chiamarli anziani, si offendono. No, ma non lo sono di fatto. Nel senso... Guai a chiamarli anziani, infatti, e quindi hanno voglia di rimettersi in gioco, di imparare, perché no, una nuova lingua, per cui insomma, poi bisogna anche dire che con l'avvento dei voli low cost, della tecnologia, di Skype, eccetera, la lontananza si sente molto meno. Quipotti, qual è il profilo tipico del pensionato che a un certo punto si rivolge a voi e dice: senti, io voglio andare a vivere dove si pagano meno tasse? Allora, è proprio quello che dicevamo poc'anzi, cioè sessantenne, sessantacinquenne, quindi attivo, con... diciamo così, già una certa esperienza, una certa predisposizione, ecco, perché questa cosa, tanto per rubare uno slogan famoso, è per molti ma non per tutti. Bisogna dirlo, insomma, per cui bisogna, nel senso avere che bisogna avere anche un desiderio di mettersi in gioco, uno spirito minimamente di avventura, anche perché bisogna stare 6 mesi all'anno, no, se non sbaglio, esatto, Residere nel paese dove si tratta di un cambio di vita comunque radicale. Abbastanza radicale, anche se poi appunto grazie ai voli low cost eccetera si può rientrare, però sono previsti 183 giorni di permanenza l'anno. All'anno, cioè anche non continuativi, per cui insomma sommando i vari periodi. Ma bisogna decidere di cambiare un po', di sradicarsi anche un po' dalla propria terra. Ecco, arrivano tantissime domande, io queste non le capisco, ma poi dove vanno a curarsi? Mica verranno in Italia. Ma guardate che è perfettamente legale, uno sta 183 giorni in Portogallo, non continuativi, prende la residenza, non paga le tasse lì, per cui gli danno l'INPS, dà tutta la pensione senza l'IRPEF, le detrazioni, e poi uno è italiano, va a curarsi dove vuole o no, Quipotti? A parte sì, che allora, in Portogallo, cioè, allora, dire, sì, oltretutto ci sono delle strutture sanitarie, credo assolutamente valide, per cui... assolutamente valide, e bisogna anche sfatare questo mito della sanità italiana. Come tutto il resto d'Italia, anche la sanità ha alcuni problemini, mentre gli altri hanno fatto passi da gigante, per cui per esempio alle Canarie è assolutamente straordinaria la sanità. Siamo in comunità europea, per cui verrà rilasciato il modello S1, grazie al quale avrò diritto alla sanità pubblica nel nuovo stato di residenza. Ma vedi Veronica, arriva un altro messaggio, ma sti cazzi che è legale! Ma come? Ma fa tutta la differenza! È legale, è perfettamente legale, non stiamo parlando di delinquenti, stiamo parlando di persone per bene che fanno una scelta di vita. Ma no, certo, ma voglio dire... Se mi permettete solo un secondo, la domanda è questa. È giusto, è corretto che uno dopo 40 anni di lavoro, 45 anni di versamenti, di contributi, eccetera, possa decidere di vivere dove vuole o deve essere agli arresti statali? Ci mancherebbe soltanto questo, è sacrosanto. Pare, secondo chi, siccome c'è la rabbia e l'invidia sociale, chi dice io non avrò la pensione e guarda cosa mi tocca sentire, uno che non paga neanche le tasse. Ma non è che evade le tasse. Ma no, cioè... che vuol dire non paga le tasse? Si trasferisce nel momento in cui non è qui, al di là della sanità, non gode di tutta una serie di servizi che sono previsti dallo Stato, per cui non paga le tasse. Sì. Che discorso è? Non le paga nemmeno chi ne gode. Ma è sbagliato il punto di partenza. Non è che non paga le tasse, semplicemente le versa nel nuovo stato di residenza. Si chiama C'è un'espressione che si chiama proprio emigrazione previdenziale, ho letto, no? Quindi in qualche modo volta ad un risparmio sulle tasse a seconda di dove si decide di condurre la propria vita. Sì, quindi si fanno anche dei sacrifici, nel senso che decidere anche di andare via dal proprio paese d'origine e spostarsi altrove è un sacrificio. Spezzo quindi una piccola lancia per l'ascoltatore arrabbiato. È vero, si vanno a pagare dove si va a vivere. Se però il paese dove si va a vivere te ne chiede zero, il risultato è che non si pagano, ecco. Però questo ha molto poco a che fare, perché se in quel paese vige quel regime fiscale, la scelta è di quel paese. Infatti, quindi dove vai ti adegui alle leggi che ci sono. Il problema è non violare la legge. Infatti Eugenio Parise, che lo ribadiamo per l'ennesima volta, come tanti, è in una situazione perfettamente legale per l'Italia, per il Portogallo, anche per Giove. Lei come reagisce a queste accuse che arrivano ogni tanto, anche di tradimento della patria, di voltare le spalle al proprio paese? Cosa rispondere? Guardi Milan, innanzitutto bisogna fare un piccolo chiarimento che però è essenziale e strutturale. Le tasse non si pagano per decisione del paese, nello specifico Portogallo. Però nella stessa maniera e allo stesso momento questi soldi si restituiscono reinvestendoli nel paese, cioè si spende di più perché c'è disponibilità maggiore, questi soldi vanno nell'economia, fondamentalmente nel terziario, va nell'area immobiliare, ci sono grandi investimenti appunto in immobili, quindi è denaro che si mette in circolo, non viene da nessuna parte del paese, non viene prelevato da altre fonti, ma viene da fuori, dall'estero, quindi è denaro fresco. Anche psicologicamente la persona... È un investimento che il Portogallo fa, che la Bulgaria fa. Il Portogallo ne riceve vantaggi, non a caso ha aumentato del 2% il PIL, è il secondo paese di incrementi lo scorso anno, è il secondo paese con diminuzione di persone, diciamo, che non lavorano, e sta avendo una nuova gioventù dopo i drammi economici e politici che ha subito. Infatti è questo il punto, Veronica. Ieri quando io ho letto l'attrattività dell'Italia, ma come si fa a competere con un sistema che dice vieni qua caro pensionato, però io per 10 anni ti fai a zero? Leggendo zero il piano tasse. È evidente che questo è ancora in via di formazione, quello di cui parlava Boeri, il presidente dell'INPS, però per esempio loro pensavano ad una serie di senior house fatte insieme ai comuni, quindi all'interno di borghi, paesi italiani, che abbiano tutte le strutture mediche e sanitarie necessarie, e pensavano anche loro a degli incentivi fiscali, per esempio per i primi 3 anni. Ma quelli li mettono a zero, quindi, cioè voglio dire... Io non so che regime fiscale penseranno qui in Italia, però il fatto che sia una cosa fattibile e che possa essere anzi un modo di incentivare le economie, a proposito delle polemiche precedenti, il fatto che anche in Italia si stia pensando di farlo per attirare le persone qui, significa che non è così fuori dalla Parise tornerebbe, da ogni logica. Tornerebbe in Italia a fronte di una qualche agevolazione, che bisogna capire quale sarà... Ma il problema non è l'agevolazione, è fuorviante questo discorso, cioè il sole e il mare va bene per 15 giorni, un po' di soldi di più da spendere va bene per un certo periodo, e allora perché? Ma la stragrande maggioranza di noi, soprattutto quelli che vanno in Portogallo, possono tranquillamente vivere in Italia più o meno nella stessa maniera, anche avendo meno, diciamo, denaro da spendere, quello che e hanno allora perché? È sufficiente. E l'insieme, e il tipo di vita, e l'atmosfera, e la relazione, e la sicurezza, e la tranquillità, e la non rottura di scatole dalla mattina alla sera con i mille problemi che abbiamo in Italia. Questa però è una scelta di vita interessante, è una scelta di vita più radicale, che non ha a che fare soltanto con lo spendere meno, spendere di più. È più profonda questa analisi, e fa più male a noi, fa più male a noi, vuol dire che proprio si vive male. Nell'immaginario collettivo è sempre stata la parabola contraria, la gente andava a lavorare all'estero e poi veniva, no, nel momento in cui non c'erano più i vincoli lavorativi, tornava nel paese d'origine. Invece questa volta sembra che le cose non vadano più così. Sì, ma poi voi parlavate prima, io vi ascoltavo nella primissima fase, prima dell'inizio del collegamento con noi, parlavate delle recenti referendum nelle tre regioni. Esattamente, nelle tre regioni. E già ci sono mille problemi, ancora devono incominciare, sono problemi. Cioè questo tantan continuo di insicurezza, il governo che non si fa, le liti, la lotta di tutti contro tutti, e poi il problema grave del non governo dell'immigrazione, il problema insomma, grave tutto, della probabilità tutta una serie di, cioè, no, ma tutta una serie di questioni paese che non va. Ma, allora sentiamo, ma aspetta, lei sentiamo, non si sente una sola cosa, lei non si sente vittima neanche un po' del fatto che ha dovuto partire, cioè è una scelta che lei ha fatto anche con entusiasmo. Ho fatto una scelta ragionata, ho iniziato diciamo con tempi leggermente più brevi e poi pian piano li ho allungati. Ha scelto. Sentiamo l'ascoltatore, ripreso. Eugenio, aspetti perché ci sono tanti ascoltatori. Stefano da Bergamo, tra l'altro mi dicono di essere giovane, 25 anni. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, premetto che quello che sto per dire non si riferisce chiaramente alle persone in studio. Premetto anche che... Ho già paura. Premetto anche che... Vabbè, ma dai, senza premesse, Stefano, cosa vuole dire? Comunque, quello che volevo dire è che queste persone fanno benissimo ad andare all'estero. Fanno stramega bene. Ciò detto, c'è questo piccolo problema che queste persone, non quelle che sono in studio, sono anche quelle che ci hanno lasciato un sistema previdenziale che penso che dopo la Grecia forse sia quello più malmesso. Non loro, magari i politici, lo Stato, loro forse ne hanno beneficiato. Ha detto non proprio il signore. Ti dice loro, beh, attenzione, perché loro hanno votato i politici che hanno creato questo sistema previdenziale. E sono anche la DC, quelli che DC, che insomma, la democrazia cristiana. Stefano, ma tu ne fai un discorso generazionale, nel senso è la generazione... Caspita, è interessante perché Stefano dice per anni hanno votato quei politici che hanno creato questo sistema marcio e malato sulle pensioni ed ora se ne vanno dopo avere, eccolo dico io, fottuto un po' del bottino. Dai, ma no, non loro, non Eugenio Parise, per carità, Parise non ce ne voglia, anche Stefano ha detto non... Però è interessante questa lettura. Sì, però, questa Milan, lettura, scusi, in una maniera un po' fuorviante, quello che dice questo ascoltatore è vero, non è una bugia. Il problema è che al solito non troviamo mai un colpevole, cioè alla fine il colpevole è il popolo. Popolo, tra l'altro, che si scioglie, diciamo, in un percorso degli ultimi almeno 70 anni. No, il popolo quindi non può mai essere colpevole. Il pesce puzza sempre dalla testa, è chiaro. La verità è, per esempio, l'INPS in crisi. Quando Boeri va raccontando in giro che adesso abbiamo bisogno degli immigrati per sanare o per mantenere qualchedun altro, dice una serie di balle. La verità vera è dove sono i soldi dei pensionati delle aziende pubbliche che sono stati trattenuti dal governo e pronti a pagarli soltanto nella fase pensionistica, perché non hanno versato tutti i soldi dei pensionati pubblici? Vabbè, no, però lo sappiamo che c'è un problema. No, però su questo non voglio fare, però cioè Oscar Giannino da anni ci spiega che è un sistema a ripartizioni e non a capitalizzazioni, per cui non è che lei ha versato negli anni le quote per pagarsi la sua pensione quando è data in pensione. No. Quando lei versava le quote pagava le pensioni di suo nonno. Ma così come quando paghiamo le tasse, non paghiamo le tasse per i servizi di cui poi usufruiremo personalmente, ma paghiamo uno Stato, una struttura statale che poi dovrebbe fornirci dei servizi. Questo a prescindere da come poi lo Stato funzioni. Comunque il tema è caldissimo, ma noi dobbiamo andare in pubblicità e vi dobbiamo ringraziare. Eugenio Parise. No, ma io voglio sapere, Eugenio, se le manca il lago di Bracciano. Eccolo, e questo è il punto fondamentale. Ma è seccato il lago di Bracciano. Non c'è di più, mi manca un po' l'Italia, mi mancano un po' gli affetti, le amicizie, i rapporti. Però... E diceva bene il signore dell'agenzia, cioè, si ritorna quando si vuole. Sì, esatto. Se uno ha voglia di ritornare, cioè, se uno non ha voglia di ritornare, ormai, bisogna che lo lasciate, dico voi, faccio il contraltare, no? Bisogna che lo lasciate libero, perché poi stiamo parlando, mi faccia dire quest'ultima cosa, Milan, stiamo parlando, tra virgolette, di quattro gatti. Lei sa che in Italia ci sono circa 18 milioni di pensionati. I pensionati all'estero sono circa 400.000. I famosi INPS puri sono 250.000. Guardi di che numeri microscopici. No, certo, però quattro gatti proprio no. Comunque vi ringraziamo anche Carlo Quipotti, titolare dell'agenzia Nuova Vita di Altavilla Vicentina, Vicenza. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi... No, qui qualcuno Ale, ha parlato... Ale, ma tu stai cominciando a organizzarti la partenza? La partenza per dove? Per Roma? No, la partenza no, per l'estero. No, ma va, svecchiare... ma io sono già vecchio. Ci siamo ormai. Lascia stare. Andiamo. Poi raccontiamo una storia molto, molto intensa. I funamboli. Allora, sono le 9:36 minuti, rientriamo in diretta, questi sono i funamboli e c'è Michele che ci chiama da Chieti. Buongiorno, Michele. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Veramente un grande piacere. Che bello, grazie. Allora, io volevo un po' riprendere il discorso di chi mi ha preceduto prima del 25enne. Io ho 42 anni e mi riconosco in quello che diceva. Perché? Perché prima di tutto bisogna far notare ai nostri cari pensionati che hanno vissuto, dal mio punto di vista, i privilegi che l'Italia poteva offrire loro in tutta la loro carriera, sin dal lavoro, pensione e adesso, diciamo, una vita da decidere di spenderla in Italia o all'estero. Una cosa invece molto importante è che basta a mortificare l'Italia. Io sono un imprenditore, sì. Ci sono infinite possibilità per i giovani di lavorare e soprattutto c'è dell'esperienza degli anziani, tra virgolette, da accompagnare a questi giovani. Va bene, quindi, messaggio bello, un messaggio di speranza. Non bisogna scappare dall'Italia. No, ma non è, ma io non la metterei neanche come scappare. C'è la libertà di scegliersi la propria vita, no? Di decidere della propria vita. No, diciamo che una delle critiche che viene fatta è che la politica sia poco attenta a quello che è un invecchiamento un po' strutturale, dicevamo prima, della popolazione. Sì. Cioè 16 milioni di persone che sono pensionati significa che hai una percentuale importantissima della popolazione. Andrebbero, quindi probabilmente di più. Andrebbe pensato anche meglio strategicamente il modo di rendere un invecchiamento cosiddetto attivo più vivibile. Sì. Però Veronica, ora noi vogliamo introdurre un ospite perché ci ha molto colpito questa storia. Beh, questa storia colpì davvero tutti, perché quando nel maggio del 2013, ricordate, Cabobo, immigrato e che era irregolare anche in Italia, precedenti penali per Milano, uccise con macete tre persone, fu davvero un momento drammatico per tutta l'Italia, con tutto quello che ne conseguì, le polemiche, le discussioni. Le persone che furono uccise furono Ermanno Masini, Alessandro Carolè e Daniele Carella. Oggi noi qui abbiamo, e lo ringraziamo molto, il figlio di Ermanno Masini, Andrea Masini. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Perché qualche giorno fa è venuta fuori la notizia che lo Stato ha approvato la legge per istituire il fondo per risarcire le vittime e i parenti, ovviamente, delle vittime di reati violenti, tra cui l'omicidio. Con quanto, Masini? Quant'è il massimale? 7.200 euro, non è un risarcimento, ma una carità. Presa in giro. 7.200. Assolutamente una presa in giro, se vuoi. No. Se pensiamo anche che per uno stupro vengono dati 4.000 euro, credo che sia aberrante. Sì, no. Che anche quella è un'altra cifra ridicola. No, perché bisogna spiegare che in realtà tutto questo nasce dal fatto che Cabobo non ha i soldi, chiaramente non possiede e quindi non ha possibilità di versare. Erano 200.000 euro, giusto, la cifra che era stata pattuita? Assolutamente sì, per quello che mi riguarda 200.000. Sì, questo è il fondo per cui lo Stato, nel caso di omicidi, stupri, dovrebbe reati supplire. Violenti, esatto, laddove ci sono delle persone che hanno commesso questi reati e sono nullatenenti, risultano nullatenenti, interviene lo Stato. Però queste sono le cifre, meno di 4.000 euro per uno stupro, 7.000. Lo so che è brutto, perché come si fa a quantificare poi un dolore, sì, un delitto? Hanno messo un tarifario per ogni tipo di dolore che prova una persona, cioè un omicidio 7.200 euro veramente è vergognoso, quando poi pensiamo che ne spendono 4 miliardi di euro per la gestione dell'immigrazione, cioè questo è veramente paradossale. Comunque mai mi sono abituato a queste bassezze di questo paese. No, abituarsi no, secondo me, cioè è bene denunciarle, è bene dirle, è molto giusto parlarne, ma è anche giusto, secondo me, discutere il concetto di giustizia riparativa in termini di denaro, no? Che è una delle cose, in questo caso chiaramente c'è la pena, è inutile parlarne, però la giustizia riparativa a volte rischia di diventare veramente un'offesa. La pena, anche lì mi perdoni, però è il rito abbreviato, è un altro regalo che lo Stato fa nei confronti dei delinquenti, cioè tre omicidi, 20 anni, anche qua credo che sia sempre un ulteriore dolore per la famiglia. Perché ricordiamo, è stato condannato a 20 anni definitivi, con rito abbreviato che consente di avere un terzo di sconto delle agevolazioni. Andrea, io leggevo che lei ha speso anche molto per sostenere le spese legali, perché ha dovuto far fare diverse perizie psichiatriche per evitare che fosse dichiarato incapace di intendere e volere. Il costo è complessivamente alto, cioè non bisogna calcolare solo quello che si spende in, con gli avvocati o con i periti, ma tutto quello che gira intorno a una situazione del genere porta a spendere una cifra abbastanza elevata. Quindi, E tra l'altro su questo non c'è un'assistenza dello Stato, perché si è discusso anche, anche di questo. Non c'è perché non è. Basti pensare che in Italia è presente il Garante Nazionale per la Tutela delle Vittime, quindi scusi, la tutela dei detenuti, sì. E sì. Non il Garante per la Tutela delle Vittime. Che è giusto, che cioè, voglio dire, dovrebbero esserci tutte e due, ma non è che vogliamo togliere il Garante dei detenuti. No, chiaro, ho capito, però stiamo valutando l'idea di istituire una figura del genere attraverso un osservatorio di cui faccio parte. E mi sembra giusto, questo mi sembra una battaglia giusta. Beh, che è il corrispettivo della difesa d'ufficio che tocca, no? Chiaro, però in questo momento chi è che viene difeso? Vengono difesi solo i diritti dei detenuti. Certo, è assurdo. Senta, assurdo. Allora ci fu una mobilitazione, l'opinione pubblica si divise, la politica cavalcò ovviamente, perché Cabobo, essendo un immigrato irregolare, ricordiamo, e anche con precedenti penali, ricordiamo tutte le polemiche. Da allora invece cosa, che senso c'è? Un senso di abbandono, mi sembra, perché Io credo che tutte le vittime siano abbandonate. Se basti pensare anche una persona che conosco, Francesco Siciniano, che lotta tutti i giorni per far valere i propri diritti. Una persona è andata in casa sua, gli ha puntato l'arma, lui si è difeso e probabilmente potrebbe essere imputato come con l'accusa di omicidio, cioè è veramente assurdo. Cioè, abbiamo affrontato caso simile. Quando uno varca la proprietà privata ha già oltrepassato il limite, quindi non vedo il problema, nel senso è molto molto molto difficile. Beh, questo incide sulla legittima difesa, ne abbiamo discusso anche in realtà recente. Lì era l'unico emendamento che aveva una logica, a mio avviso, della nuova legge sulla legittima difesa, quello che le spese processuali fossero completamente a carico dello Stato. Ma fu un emendamento di Verini e quello aveva un senso, è il minimo. Cioè invece voi vi siete trovati come famiglia a pagare le spese legali, a vedere una pena che secondo voi non è commisurata ai tre delitti, 20 anni, però questa è una questione, come dire, di applicazione delle leggi, e poi ora a vedervi come possibilità massima un 7.200 euro di quantificazione per l'uccisione. Per quello che mi riguarda, lo Stato si può anche tenere, io non voglio la carità da nessuno. Questo, che cosa pensate di fare? Pensate di accettare o rifiutare? No, io parlo per me. Io non accetto 7.200 euro, per me sono veramente una presa in giro e potrebbe solo aumentare il nervoso che c'è dentro di me, perché già la situazione non è stata una delle bellissime, ovviamente perdere un padre è abbastanza difficile. Poi vedere che una persona che va a processo viene anche premiata, tra virgolette, con rito abbreviato, vengono decurtati degli anni, probabilmente poi con i vari sconti di pena potrebbe anche farne una decina, e in più lo Stato mi dà 7.200 euro. Facciamo così, che lo Stato si tenga i soldi, che non mi interessa. Io la carità non la voglio da nessuno. Guardi, avrei preferito vedere questa persona all'ergastolo, e quello per me era più che sufficiente. Andrea Masini, noi la ringraziamo ovviamente, grazie, perché anche parlarne, come noi diciamo sempre, Veronica, di tutti gli ospiti che ci raccontano, ci raccontano anche parte della loro vita, insomma, le mettono a disposizione dei nostri ascoltatori, e un qualcosa che pongono anche delle questioni che poi a volte anche in forme diverse ma si ripropongono. Ti ricordi il discorso dello stalker e della sentenza appunto di 1.500 euro di riparazione che ha fatto tanto discutere? Sono situazioni in cui anche l'amor proprio delle persone, delle vittime, chiaramente sono casi molto diversi, ma ne vengono doppiamente ferite, quindi è uno spunto di riflessione importante. Comunque continueremo a seguire anche la sua invece battaglia, quella politica, perché la politica poi è tutto, non è solo candidarsi, del cercare di portare avanti un osservatorio, comunque un garante per le vittime e i parenti delle vittime. Grazie davvero ad Andrea Masini, figlio di Ermanno, una delle tre vittime di Cabobo. Sono le 9:45 minuti, c'è il nostro funambolo Leonardo Manera che è lì con le braccia un po' conserte. Che bella vocina con rantolo che hai oggi. Perché ti viene un colpo di tosse e tu lo devi sottolineare? C'hai un'anaconda nella gola? che si sta divincolando e sale nella gola? No, è il serpente della secessione che mi si sta insinuando così nella gola. Dai, andiamo al traffico. I funamboli. Today I don't feel like doing anything. anything. I just wanna lay in my bed. Io fra 10 anni vorrei andare a vivere alle Azzorre, ma mia moglie non ci sente perché a lei non piace tanto il vento, ma a me piacerebbe tantissimo. Purtroppo, vabbè, vedremo cosa si può fare. Stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Siamo in Europa, ci spostiamo come vogliamo. Un olandese va in Italia, un italiano va in Portogallo, eh? E poi ripeto, perché bisogna andare in Italia a svernare noi del nord? Oh yes, I said it. Hai capito che lo ius soli dei pensionati italiani è quello di andarsene via? Ma chi ci viene in Italia? Lo ius soli. E ius sola, è una sola. Ecco, sapevo che arrivava lì alla battuta. Era, se le attirava talmente tanto che era... Leonardo, però non è vero, guarda che ci sono un sacco di ascoltatori che giustamente scrivono che il sud Italia può essere estremamente attrattivo. Io sono d'accordo, certo. Dal punto di vista climatico non è proprio niente da invidiare a nessuno degli altri paesi. Se uno si inventa una politica giusta di incentivi fiscali, secondo me può essere veramente una svolta. La svolta della gentile. Io li invidio tantissimo i pensionati, voglio dire, ma non anziano, voglio diventare vecchio proprio. Vecchio perché il vecchio secondo me è molto più libero da tutti i condizionamenti, dalla società che ci sono, può viversi se ha un minimo di salute, un po' di soldi, può vivere molto meglio del giovanotto. Hai capito, salute e soldi, hai detto poco. Sì, ma non bisogna averne chissà quanti, no? Perché poi anche vivi con meno necessità, quindi io spero di diventare vecchio, caro Alessandro. Ma non sei già un po'? Mi sto avviando bene, sono ancora uno splendido cinquantenne, però mi avvio verso una... Ma... Hai già programmi di partenze per la vecchiaia? Non si sa. Ma adesso mi sto organizzando. Prima in Marocco secondo me. In Marocco, ne parlavamo si ieri. Sposa, quando seguirà sua moglie, dici? Certo. Saluto la mia amica marocchina che magari ci sta seguendo. Certo. Chissà. C'è solo una cosa brutta, secondo me, del diventare vecchi, che sono gli hotel per anziani al mare, alcuni in Italia, sulla riviera romagnola, dove si fanno le vacanze al mare per anziani, perché quegli hotel si chiamano sempre Miramare, anche se sono a 30 chilometri dalla spiaggia. Per terra c'è sempre il linoleum o la moquette con dentro gli acari in overbooking, in bagno c'è sempre la ventola rotta che cigola e il sabato sera il maître elegante vestito di bianco arriva con una splendida torta Saint-Honoré che fa vedere a tutti e poi rimette via, dura fino a novembre, è di resina. Come intrattenimento c'è solo un mazzo di carte, ma anche il mazzo è vecchio, su quel mazzo la regina ha le rughe e il re non c'è perché ha abdicato in favore del Jack. E poi il sabato sera c'è un duo di piano bar, uno canta e l'altro mette le basi. Quello che canta al codino come Fiorello negli anni Ottanta, quello che mette le basi al parrucchino, ma sopra il parrucchino, dentro al parrucchino la forfora, per aumentare l'effetto verità. Però, durante quei momenti di piano bar, l'anziano diventa bello. Più bello di tutti i giovani che ballano a Ibiza, a Riccione, a Milano Marittima. I capelli delle donne, che fino al pomeriggio erano come gatti, schiacciati su quelle nuche stanche, di colpo si ergono sulla testa, come torri, di un colore che va dal rosa barocco leccese al blu di Klein, quel blu quasi viola. E il vestito a fiori, illuminato dall'unica luce stroboscopica, di colpo quel vestito diventa elegante. Come un tubino nero. E agli uomini che ballano con loro come per magia spariscono le pance, il calzino corto si allunga e la testa diventa bluastra, come una pillola di Viagra. Lui e lei ballano. Ma ballando non parlano d'amore, parlano di malattie, che è molto più interessante. Poi la musica finisce, tardi, alle 9:30. In qualche camera si sente come il cigolio di un materasso che va su e giù, su e giù, su e giù. È la ventola rotta del bagno che cigola. Poi tutti dormono o cercano di dormire. Le donne pensano al maître, elegante, bello e impossibile. E gli uomini invece pensano alla torta Saint-Honoré. Dolce, con un retrogusto amaro, ma comunque da gustare, come comunque da gustare è la vita. È Posso salutare l'amico Pietro Nobile, che è l'autore di questo pezzo musicale, un grande chitarrista. Ah, bene, bene. Capito, Veronica? Anche tu, tra un 50, 60, 70, 80 anni. Tra un'ottantina d'anni, quando già i vostri nipoti staranno svernando alle Canarie, mi preoccuperò di questo. Comunque, sì, anche tu, Veronica, insomma, non sei più freschissima come età, comincia a avere anche tu. Ma smettila! Annetto. Dici che dopo il 30 è un piede nella fossa, eh? Ormai è andata. Ragazzi. No, sentite compiuto qui. Compiuto il trentesimo, ho capito che ormai è così. È un pezzo straordinario comunque questo di Leonardo Mania. Tra l'altro, secondo me è una grande verità, nascondeva proprio... Beh, sai che questo pezzo mi è venuto in mente a San Benedetto del Tronto. Guardando gli anziani che ballano davanti agli hotel. Ci sono quelle piccole pedane, magari con un duo di piano bar, e questi anziani che ballavano lì d'estate. E allora scrisse questo pezzo con un'unica luce veramente. Stroboscopica però. C'è Cesarino che ci chiama da Milano. Buongiorno Cesarino. Buongiorno signori. Eccolo, che bella voce pimpante. Siete fantastici. Oh, ma grazie Cesarino. Perfino Leonardo Manera, non ci credo. Io vi seguo sempre, Radio 24 è fantastica. Bene. Io chiuderei qui la telefonata. No, basta, la telefonata è perfetta Cesarino, non ha nient'altro da dirci. Cosa ci vuol dire? Così era perfetta, tanto, eh? Ci sarebbe tanto da dire, solo che quello che dico io ormai è un classico che tutti sanno, solo gli ottusi non possono vedere quello che si vede, no? Voi siete fantastici come fantastica l'Italia, a livello cucina, cibo, livello cultura, storico, clima, abbiamo un blocco d'oro con dentro dei zaffiri, delle perle, dei diamanti, c'è un ma che sta arrivando, c'è un ma. Abbiamo l'Italia che è spettacolare, ve lo dice uno che ha girato tutta l'Europa per lavoro, l'ho girata tutta. Allora Cesarino, lei sta qua, lei sta qua. Come? Lei sta qua. Se ne resta qua? No. Perché? Ma come, abbiamo fatto questo spot meraviglioso all'Italia, poi fatto uno prende parte, esatto. Adesso le dico perché. Perché come le ho detto, noi abbiamo un lingotto d'oro con tutte le perle inimmaginabili. C'è anche un giornale radio che abbiamo che sta andando in onda, Cesarino. Questo lingotto d'oro è coperto di letame. Tutti i giorni noi facciamo del tutto per infangarlo. Oh mannaggia. No, si fermi qui col lingotto d'oro coperto di letame, che è un'immagine straordinaria che, e non che ha ci bisogno, portiamo dietro tutto il giorno. Non ha bisogno di spiegazioni. Zaffiri, diamanti. Per una botta di allegria. Ma noi sappiamo che dal letame, in particolar modo quello con l'oro sotto, nascono i fiori. De André. Dai, giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. This is the summertime, yeah, it's for always. Scusate, ma è inutile che andiamo a te, ma dice i pensionati, colpa loro, destra, devono ritornare. Ma fatemi capire una cosa, ma se foste voi al posto loro, che fareste? Ve ne andreste o no? E infatti massima libertà, massima libertà, no? La seconda ora dei Funamboli, Veronica, massima libertà, libertà, massima libertà, libertà, libertà, libertà, libertà. Dai, facciamo libertà. Una manifestazione senza perché, senza motivo, io e te da soli giù di sotto. No, perché vieni, sembrava ma molto... Guarda, non mi sembra neanche più Radio 24, devo dire. No, vedi, stiamo occupando con la K Radio 24, No, sentivo tanto parlare di onestà, libertà. Ma io, guarda, mi basterebbe andare a Cernusco sul Naviglio, come dicevo anche ieri. Che bello spostarmi da Milano a Cernusco. Che amarezza. Per andare a svernare, per la vecchiaia. C'è un clima più mite a Cernusco. Va bene. Allora, dai, alle 10:09 minuti, è la seconda ora dei Funamboli che noi introduciamo con il Funambolo del giorno, che oggi è una persona straordinaria che sono felice ci è venuta a trovare negli studi di Radio 24 di Roma. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? felice. Questa musica mi fa immaginare che abbia a che fare anche con la musica? Sì, sì, sì, è anche musica. Un cantante. Anche un cantante. Un cantante. Tiziano Ferro. Non ci sarà mica Baglioni. No, no, no. I Modà. No. Ha vinto però un festival di San Scemo. Ha vinto San Scemo, quindi. Sì. Nel 92. Questo è già un indizio. 92. Nel 92 è un quindi po' lontano, vecchio. Sì, deve averne vecchio, certa cioè età. Cioè uno di quelli che deve andare a invecchiare in Portogallo. Potrebbe essere, chi lo sa. Quindi però, se ha vinto San Scemo vuol dire che fa canzoni comiche, ironiche. Non so, come questa. Ma come questa canzone sotto? Senti questa. Mi ha detto sei carino, ma è scappata con un negro che si fa chiamare Pino. Non me la danno mai. Non me la danno mai. Non lo so se è davvero così, ma Dario Vergassola, buongiorno! Eccoci qua, libertà! Libertà! Non so cosa dicendo. Buongiorno a tutti, sono felice di essere qua e soprattutto rivedo Manera da un video, lo vedo senza capelli, quindi siamo pari. Ciao Manera, come stai? Ormai sto bene, grazie, non ci vediamo in effetti da un po' di anni. Da una vita, dalla famosa se non piace la battuta, piace la cartolina, che era fantastica, me lo ricordo. E poi vedo Milan per la prima volta, che lo sento sempre come voce radiofonica. Vedi, esiste. E finalmente lo vedo, giovinastro, questo ho il capello. È bionda, ha il ciuffo. Ha il ciuffo, sì, con i bigodini, però è una mattinata così. Buongiorno a tutti. Sai cosa mi sono ricordato, Dario? Mi ricordavo quando venne come ospite a Zelig e tu facevi le interviste Asi Argento, ti ricordi? Certo. Che gli hai chiesto? Interessante. Che tra l'altro è stata un'inversione di ruoli anche lì, e quindi dobbiamo portare la parte dal punto di vista maschile. Gli ha fatto delle domande che lei capiva e non capiva, ma così, perché erano domande un po' assurde, cioè io facevo queste domande, cioè non era tipo, per lei che non le capiva, tipo, tu no, in generale, ma tipo ti ricordi la sua prima, queste, cioè prendevamo queste ragazzotte giovani belline così televisive, le mettevamo in un modo molto terribile, cioè le mettevamo a fare un'intervista con me con una parrucca in testa, che non capivano se ero serio, se ero un giornalista, non sapevo neanche chi ero, neanche io lo so adesso. Senza gente, senza pubblico, sono una telecamera fissa. Sì. E loro cominciavano a sudare, il trucco colava, perché non capivano bene cosa stava succedendo. E rispondevano a domande senza capire la domanda, con delle risposte che non capivo io, quindi era un cortocircuito. Stupendo. L'intervista perfetta. Perché di te faccio le domande tipo, non so, ti ricordi la tua prima volta? Sì. Quanti eravate? Questa non capiva più se era una cosa seria. E però se Argento, che le hai chiesto a lei? Ho fatto delle cose che mi sono abbastanza divertito. Gli ho detto una volta tipo, non so, suo padre, lei ha dichiarato che suo padre gli è andato a stare davanti alla televisione, sua madre è andata a stare dietro la televisione, ma visti i risultati, uno zio che la teneva alla larga sta televisione non c'era, e lei cominciava un po' a ombrarsi, no? E mi ha detto, io dicevo delle quanto cose strane, tipo, poi mi ha detto, per stupirmi, mi ha detto, io sotto l'ombelico ho tatuato un angelo custode. Io gli ho detto, non le bastava un antifurto come gli altri, quindi poi così. Però a un certo punto gli ho detto, tipo, non so, la prima volta che è risulta le mestruazioni, si è spaventata o ha pensato uno scherzo di suo padre? E lì lei, non sapendo cosa rispondere, mi è saltato addosso e mi ha baciato con la lingua. Non è vero. Attenzione, qui c'è già un ribaltamento di tutte le vicende degli ultimi giorni. Cioè, tu hai subito molestie. Da Asi Argento, quella volta lì. E adesso cioè, scherziamo su qualcosa lì che è seria, per l'amor di Dio, quell'omone là dovrebbe essere impalato. Ne abbiamo parlato. Però lei ha fatto questa, perché non sapendo più cosa dire, quindi ho scoperto che facendo le domande un po' strambe poi limonare mi baciavano, esattamente. No, quindi il criterio è quello, metterle in difficoltà perché ti saltino addosso, e funziona? Ha funzionato abbastanza, e devo dire la verità, lavorando con questa che si chiama Gentili non Veronica so. Qualcosa così, e ho subito anche in questo caso, diciamo la verità. Ma infatti la cosa fantastica, perché Vergassola omeopatica, esatto. Diciamo. Ti ha messo le mani addosso, eh? No, cantante, no, attore, comico, cazzaro. Anche addirittura un programma con Veronica Gentili, proprio tutto nella questa vita. Però diciamo che è il più visto di Sky Art, possiamo dirlo, no? Sky Art è un programma di nicchia, come lo si possiamo dice, dire molto... Cioè in realtà siamo un po' una coppia di fatto, un'unione civile questa. Io ho fatto io il provino a lei e lei si è presentata con l'accappatoio e la crema, non capivo non so cosa doveva fare, però il contrario. No, poi gli ho detto mi fai un massaggio, e questa è la ragione per cui Vergassola ha fatto il programma. Esatto. Però, diciamo, tra le tante cose della vita che ha fatto Vergassola, ha fatto anche l'operaio di La Spezia. Tanti anni, credo. I primi tempi, se non sbaglio, venivi a Zelig dopo che lavoravi, no? Io arrivavo con quella 127, ormai l'ho raccontato al mondo perché mi fa ridere sta roba dopo 30 anni, però arrivavo con la 127 con l'ansia, prendevo 20 gocce di Lexotan per fare l'accisa e 5 le davo alla macchina, perché anche la macchina non era abituata, e poi la mattina quando venivo via dallo Zelig di Milano, che era poco più che un bar meraviglioso dove giocavamo a biliardino con tutti, c'era Elio, le storie tese, Paolo Rossi, la stagione qua. Aldo, Giovanni e Giacomo erano quasi fissi di giocare a biliardino. Addirittura erano Aldo e Giovanni senza Giacomo, sì. Ancora, ah, sì? Sì, sì, era proprio un inizio. E io c'avevo sta roba che era una passione per il cabaret, e quindi tornavo a lavorare la mattina completamente rimbambito, con queste nottate da schizofrenia, ero completamente doppia vita, e tornavo a lavorare con questo entusiasmo che ho adesso, cioè dormivo. Questo sì, l'orario. Ma ti ispiravi a quello che vedevi in fabbrica, quello che vedevi tra i colleghi? Io dicevo delle battute anche lì, però. Non facevi ridere nessuno. Nessuno, però nessuno, no, si arrabbiavano a lavorare. Intanto è un discorso da funamboli, diciamo la verità, cioè sono contento di essere in questo spazio. Eh no, tu sei il funambolo per antonomasia, anche perché dicevamo. Perché l'ho sempre data a bere, questa è la cosa. E questo, cioè sostanzialmente lui non sa fare nulla, ma no, tutti ci credono, no. E questa è la storia. No, è allora, scusami, l'abbiamo chiamato come funambolo per questo. Mia moglie dice, finché non se ne accorgono te vai, tutte le volte che faccio delle cose. Però, quindi, andavo lì e raccontavo delle stupidaggini, io facevo lo statale, dicevo come di statali faccio pochissimo, faccio talmente poco che la finanza non indaga sul secondo lavoro perché non è anche il primo. Io le stupidaggini un po' così. Ma in fabbrica eri una star o no? Ma no, facevo proprio veramente il manovale. No, una roba, facevo, cioè, quando entravi nessuno ti dava retta, non ti chiedevano gli autografi. Ah, non mi ha mai cagato nessuno, ma neanche adesso, tra l'altro. Cioè, però, andavo lì, facevo sta roba. E poi però mi piaceva queste cose qua di cabaret che uscivano da poco. Io di notte avevo visto in una televisione che si chiamava Odeon TV, mi sembra, non so neanche se come c'è, no, ancora, come non no. Credo. E c'era una roba sul cabaret, e una sera facevano vedere il re del cabaret. Che era Maurizio Milani, che era un genio. E io sono partito con un mio amico che faceva il centralista alla Cassa di Risparmio, sono andato a Milano a vedere in questo Zelig Viale Monza questo genio, che era veramente un genio, e poi tornavamo giù. Quindi c'era questo strano modo di affrontare alla mattina, non dico il tornio perché non ce l'avevamo, però quando è stata la virata? Quando è che hai smesso la fabbrica e ti sei messo a fare virata, unicamente il funambolo? La virata, io ho iniziato a scrivere delle cose insieme a Stefano Nosei, che è spezzino, che poi lui ha avuto subito un buon successo. Però poi ho detto, ma perché non me le tengo io, le faccio io da buon ligure, no? Tanto non, certo, non girava una lira, e ho detto vado su, ho provato a fare questo provino. Mi ricordo Gino e Michele che mangiavano delle caramelle alla liquirizia, mi guardavano come se fossi un marziano, perché io raccontavo le cose di casa, raccontavo le stupidaggini di mia mamma, le battute, le stupidaggini. Adesso se volete ve le ridico un'altra volta, però veramente prendo cose di casa. No, fai così, no, ce le dici sicuramente, ce le dici però dopo il traffico. Ed è bello anche raccontare i provini come venivano di mattina, ti ricordi? Ce lo dite però tra poco. Un po' come adesso. Perché c'è il traffico, dobbiamo andare al traffico, attimo di sospensione, così dal traffico veramente lì ci sono i drammi quotidiani in fila, e poi dopo rientriamo con Dario Vergassola. I funamboli. Ecco, vedi che l'abbiamo rispolverata, con un intro infinita, per questa non riuscivamo. Con questa hai vinto il Festival di Alessandro. Ma questa è meravigliosa, è spaziale. Alessandro è appassionatissimo di questa canzone, che cita sempre Mario Marta. Ma chi è questo Mario? Ma in realtà è una roba che, voglio dire, è un evergreen, un po' come Sapore di Sale, perché sta diventando questa roba qua. Però c'è questo come dice, un reflusso, non gastroesofageo, qualcosa così, però questo rivanno di moda, maniera, tienti forte, perché sì, riaprono dei locali, ti dico la verità, e Costanzo sta richiamando i comici, diciamo, anziani della vecchia guardia, perché ormai la gente, secondo me, ormai quelli che si possono permettere di andare in teatro nei locali, queste cose qua, sono quelli ormai anziani, diciamo, i giovinastri, poveracci, non c'hanno una lira. Quindi diventa difficile poi mandarli a teatro, fare queste cose qua. Quindi quelli che ancora possono andare sono questi 50, 60, capito? Questi qua un po' dove. Questa anzianitudine, quella che raccontava Manera, che l'ho sentito molto bene prima. Ma tu quante volte hai fatto Mario da Costanzo? Un'infinità. Cioè, ti ricordo che ti chiedeva sempre due mutui. Ci ho pagato due mutui, credo. Però è stata fantastica quella volta lì che. Andando da Costanzo, da persona normalissima, il giorno dopo, io che sono ansioso, sono ipocondriaco, c'ho tutto, il giorno dopo tutti mi guardavano, ecco, questo mi ha fatto un effetto, tutti mi salutavano. E tu che pensavi? Sembrava un Truman Show prima. Mi riconoscevano. Ma perché tutti ansiosi, ipocondriaci? Insomma, anche Leonardo Manera. I comici sono molto, tutti funamboli. Perché siamo, adesso lasciando perdere i presenti, ma i comici sono tutti così, brutti, sporchi e cattivi, non c'è niente da fare. Te ti trovavi a questi provini che diceva Manera la mattina, in questi posti insensati. Cattivi, non è vero. Non c'è niente di più brutto, oltre la Veronica la mattina senza trucco. Cala. Cioè, il locale. i locali alla mattina sono terribili, quando aprono le finestre, una roba orrenda, sì. E facciamo queste cose dove raccontavi, io mi ricordo un provino Rai che un giorno facciamo la chitarra, ho detto salve, vengo da Spezia, faccio l'operaio a Spezia, l'unica cosa aperta di notte è il banco, ma dicevo le stupidaggini così, e questo non ha capito, che pensava fosse mi chiamo, capito? Dopo 10 minuti mi ha detto non c'angoscia sona, allora... io sono rimasto, sai quelle cose che rimani lì e dici non c'angoscia, questo non suppongo ammasso, che fosse qui in loco nella capitale da ste parti, sì, però insomma a volte non capitano le cose, un pragmatismo però... sincero, sì. Non c'angoscia sona vergassola, esatto. Poi Gine Michelanti della situazione mi hanno detto no, torna a fare una roba, e tra l'altro ho avuto anche la fortuna di trovare quel Milani famoso, sai che... come fece il provino Milani? Maurizio Milani arrivò e disse a Gini Michele, mio cugino non è potuto oggi venire a fare il provino, ha chiesto a me se potevo venire io, e si è spacciato come il cugino che non però può... attenzione, perché c'è la domanda fondamentale da parte di un ascoltatore che vuole sapere se sei parente dell'ex calciatore spezzino Vergassola, ora vice allenatore della Robur Siena. Allora, diciamola Massimo, tutta, Massimo, salutiamo gli ascoltatori. È una balla clamorosa. No, vabbè. Perché, no, intanto il DNA si vede, lui è alto, bello, moro, io basso, pelato, e va bene. Però, in realtà, l'avevamo fatto, è stato il mio agente che è stato sveglio, perché Fazio non mi avrebbe mai invitato a quelli che è il calcio, ma siccome il mio agente che conosceva bene Fazio gli ha detto... Dario, potete invitarlo perché Vergassola è il cugino di Vergassola, il calciatore. Quindi questo ha boccato. Io continuo ad andare avanti dopo anni senza capire niente di calcio, non ho mai fatto una partita a pallone, non mi sono andato una volta solo, mi sono spogliato nudo insieme agli altri e ho smesso. La comparazione mi ha ucciso, perché ero figlio unico, non ho mai avuto comparazioni con altri, quindi ho detto sto a casa e solo scacchi, roba con la tuta. E sono andato lì e continuo ancora adesso, mi chiamano quando fanno derby, Genova, mi chiamano in quanto cugino, in quanto il falso cugino. Sì, falso, certo, il falso cugino funziona sempre, mio cugino. Ormai, scusami, ma invece tu sei fissato in maniera patologica, ne parliamo sempre, con la tua città, cioè tu da Spezzino praticamente racconti Spezia, esci solo con Spezzini, cioè altro che il referendum, ma una roba seria. No, una cosa che stimo veramente di Vergassola, non so se è vero, ma credo proprio di sì, ha detto in varie interviste, non frequenta feste, non va a salotti. Ti piace questa cosa? Bellissimo, lo adoro. Già me l'hai detta. Lo adoro. Perché non mi chiamano, No, io sono convinto, sì, che sia per questo. Perché i comici non li vuole nessuno nelle feste, noi siamo nel mondo dello spettacolo quelli sempre un po' messi da parte, no? Sì, aspettano sempre che dice la battuta, come dicono per strada. Oh, fammi un po' una battuta, ma se fermavi Rocco Siffredi cosa gli chiedi? Non è che uno fuori dal lavoro è vero, però anche se state durante il lavoro nei momenti tragici la gente si aspettava da te battute, in momenti, dopo 12 ore di lavoro distrutti, no? Adesso lavorare è un'altra cosa, però è stata dura, sì. Lavorare è sempre un'altra cosa. Con la Veronica mi aspettavo da lei il famoso yoga acrobatico che voi non che avete purtroppo ancora non è arrivato. Io l'ho, ma l'ho visto in video, ci sono la tematica yoga acrobatico, ci sono dei video che circolano in chat particolari. Perché volete farmi cacciare immediatamente? No, io vorrei chiedere una cosa a Dario Vergassola, perché io sono veramente innamorato di facendo il giornalista, insomma, delle interviste. Come possiamo chiamarle? Interviste come quella da Razzi Argento, interviste pazze, come possiamo chiamarle? Interviste surreali, le interviste. Però è stato divertente, fu la volta gli Azzelli, che dopo tante volte che cantavamo sempre Mario, quelle cose lì, un giorno ci hanno detto venite su, facciamo che questo Zelig, che tra l'altro era una seconda parte di uno Zelig, perché tutti quelli bravi erano finiti su un programma che si chiamava mi sembra Rido su Rai 1, che è rimasta due puntate. La cosa bella, adesso possiamo dire questa stupidaggine se vi interessa, c'era una batteria di prima fila di Zelig che erano fantastici, no? Erano quelli proprio Aldo Giovanni, Giacomo, questa gente qua, tutti molto bravi. A un certo punto hanno fatto questo programma, si chiama Rido sul 2, senza raccontarvi la storia di Freccero eccetera, che ha preso tutta sta roba, ha detto facciamo un programma e freghiamo Mediaset, per dirti. E cosa succede? Che tutta la seconda, la panchina, è quella che poi hanno chiamato, perché ti ricordi Maniera, diciamo, io te, non so, Ale Franza, Franza, Flavio Reglio, Alberto Patrucco, Sergio Sgrilli, Marco Della Noce, brava, tutta la banda, compreso il Mago Forrest, piuttosto che tutti. E è diventato uno zeligone quello lì, cioè la cosa incredibile è che con quelli in panchina hanno fatto un campionato da urli loro, però era divertente perché c'era questo ambaradan di personaggi e ribadisco, conoscendoli tutti, veramente brutti sporchi, cioè a parte qualcuno tipo, non so, qualcuno un po' più carino, che non mi ricordo chi è, non faccio nomi, sennò diventa che comincia una battaglia. Subito, però certo. E c'è avuto, a me mi hanno chiesto se volevo rifare le canzoncine. Ho detto, ma perché non facciamo una cosa tipo le interviste a Iper Belle Gnocchi? E quindi si sono trovati questa roba qua con degli autori, tra l'altro, bravi, che li ho trovati anche lì e sono rimasti, perché io poi sono pigro. Le prime due puntate me le sono fatte io. Poi quando ho visto che arrivavano delle domandine fantastiche, era fatto, tu arrivavi all'ultimo momento. Tra l'altro arrivano anche i complimenti di Paolo, uno spezzino, che conferma, è molto spezzino il Bondale. Guardate, sembrava che scherzassi. Lui ha un bar che è solito frequentare, che è il suo unico luogo, capito, di frequentazione. Di raccontagli di questo bar, cosa fai? C'aveva un bar a Rebocco che non c'è più, che si chiamava Bar Pavone, che era meraviglioso. Ci ho scritto un libretto carino che è La ballata delle acciughe, raccontando i personaggi di questo posto strampalato, che però è trasversale, perché la provincia, ragazzi, è questa. E soprattutto, come si dice, cioè il bar è quello. Io mi rendo conto che c'è una patologia, ma da provincia, siamo malati di mente, perché nel piccolo, chi lo sa, noi da Spezia Sarzana, per andare a Sarzana sono 10 km, sì. 10 km, cioè facciamo il tagliando alla macchina, cambiamo le gomme. Voi non state bene. No, e poi quando sono a Roma, io vengo giù al lunedì che facciamo sta roba di tabloid, così quando vengo giù e mi rendo conto che chiamo gli spezzini e andiamo a cena. No ragazzi, non è uno scherzo, lui viene a Roma un giorno a settimana, chiama persone spezzine, ma sua moglie lo prende in giro, ma poi e va a cena con gli spezzini. Si frequenta di bar, ma anch'io che sono di Milano, no, cioè i bar ma è stupendo, è la vitalità, il popolo, è la gente che è le battute più belle del mondo. Molti comici arrivano dalla provincia, non so perché, ma insomma è una caratteristica, no? Dopo riporti. Sì, no, ma io poi nel bar poi questa cosa dei giornali, questa lettura dei giornali, che c'è questa meraviglia di velocità, il bar è di una velocità straordinaria. Ci sono dei personaggi che con delle problematiche psichiche e fisiche li prendi in giro, però sono accolti e protetti. Non so come dire, c'è questo mondo strambo. E non so, e quando uno leggeva il giornale uscivano fuori queste cose straordinarie, tipo uno che a fianco si gira da una battuta e fulmina completamente. Già l'articolo è un riassunto di una notizia, quindi no, quindi sì. La battuta è ancora. Cioè, uno tipo, non so, un giorno ha letto il giornale, c'è scritto: furto in casa Veltroni, la figlia dormiva. Punto. Uno dietro ha detto tutto suo padre, punto. Solo così, per il gusto di... Ma infatti, quanto un comico si deve ispirare davvero alla realtà, a quello che succede, alla politica? Sai, noi siamo a Radio 24, per cui ci occupiamo di temi anche molto, molto pesanti, molto pregnanti, molto importanti. Ma quanto ci ispira quando si fa questo lavoro? Beh, sei sull'attualità, ce n'hai abbastanza, perché sono quelle cose che senti, però c'è una modalità anche di, ormai c'è una capacità di autori che riescono come delle regolette. Se io dico io sto alle donne come un diabetico sta alla meringata, è una specie di proporzione matematica che puoi utilizzare anche per altre cose. Scusami, ma non te la danno mai, no? Per capire. No, esatto, perché siamo partiti da qui. No, questo lo vogliono sapere, cioè c'è Milan che non se ne fa una ragione, te la danno o non te la danno? No, ma sono maschio, ma non esercito intanto. Io ragazzi, sono nonno, basta con questa storia qua. Adesso la butta sul personaggio. Abbiamo parlato dei pensionati fino adesso. Sul mature, l'uomo mature un po' così. Ma lui sta sempre molto sotto traccia, understated. Sta sempre a Spezia e sotto traccia. Spezia sotto traccia. La butta così. Ieri sera ho intervistato Cordero di Montezemolo, che trovarselo davanti è molto divertente. Gli ho detto: da sempre si mormora che sia figlio segreto di Gianni Agnelli. È vero che lei smentisce solo per non passare per lo zio di Lapo Elkan, cioè questo mi piaceva tanto, però averceli davanti questi personaggi così, alcuni ti guardano come questo cosa sta dicendo, altri invece si divertono. Però ti togli delle grandi soddisfazioni, voglio sì, dire, però devo di dire la verità, ora adesso vi lancio questo, cioè ho trovato che quelli del centrodestra si divertono di più, sarà che sono più cazzari, non ho idea, sarà perché anche loro parte dici, sono quelli di sinistra sono tutti più ombrosi, sono più si adombrano, invece tipo non so, ti dico le cose più divertenti veramente, adesso le dico, però cioè Meloni, Santanchè piuttosto che Salvini, questi non solo rispondono, cioè aggiungono battute, cioè, capito? Rincarano la dose, sono anche loro comici nati probabilmente, gli altri si prendono sul serio. Guarda che ne abbiamo tanti ascoltatori anche sui temi che abbiamo affrontato, c'è Sandro per esempio da Piacenza che è lì da un po', vogliamo sentire cosa ci vuol dire. Sandro, buongiorno, perché ci ha chiamato? Sandro infatti ha messo giù, è lì da un po' in effetti, ha detto adesso è cenere, ha detto va bene tutto per... polvere alla polvere, va bene tutto, vi ho chiamato però se mi fate stare qui un quarto d'ora, cioè, se il tema era la pensione poi probabilmente ha detto prima che finisca e sia tutto andato. Allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, poi rientriamo con Dario Vergasso. La senti Dario, noi abbiamo qui una rubrica che tra l'altro ha coniato il nostro Leonardo Manera, è la rubrica defurbizziamoci, cioè noi chiamiamo un cittadino, una cittadina italiana che ci racconta quella volta, in genere appartenente ai tempi del Pleistocene, perché così è andato in prescrizione, che hanno fatto qualcosa di illegale, ecco. Una furbata, una furbata, insomma, più che una cosa questo. Illegale. Perché adesso così ne facciamo raccontare uno anche a lui, eh? Esatto. Adesso me ne faccio un elemento, una trentina, ok. Sì, esatto. Ora con l'olio di ricino vedo che cosa riesco a tirare fuori durante il traffico. Perché così si liberano gli italiani, raccontano quell'episodio, giusto, e cioè, noi la radio come la sedia dell'analista, bravo. Sì, esatto, il lettino. Da adesso se l'ha fatto Vergassola, non lo posso aver fatto pure io. Ma noi ridiamo anche una verginità di onestà. Una catarsi. Onestà, no, era libertà. Ah, va bene, andiamo. No, stai buonino. I funamboli. Anche col 35% in meno della pensione, ma io dall'Italia non me ne vado. Viva l'Italia! Vabbè, questi sono i nostri ascoltatori. Niente. Tu lo sai, Dario Vergassola, che c'è un veto a Veronica di cantare, se non no, il venerdì, no, ma Veronica, lei, ma lei. Oh no. Ma possiamo dirlo adesso? Se, no. Allora, Veronica c'ha un problema. È convinta di cantare bene, questo va bene, ognuno ha le sue tare. Pensa che per non farla cantare, le hanno anche detto che c'è un leggero ritardo. Ma che è vero, lei è fuori sincro in generale, però lei canta completamente senza, solo di naso. È una cantante country, cioè una da Nashville, capito? No, ragazzi, il cappottone collettivo a me no, non è giusto, perché, non si fa. Perché così arriviamo al fatto che devi auto, cioè devi liberarti di queste cose qua, questo trauma va liberato. Di queste, cioè, sovrastrutture. Cioè, vuoi che canti di diaframma? Allora ricomincio da capo. No, diaframma no. Allora vorremmo sentire all'800 24 0024, ci ha chiamato Andrea da Firenze. Andrea, buongiorno, che ci vuole dire? Buongiorno, buongiorno. Pronto? Sì, Andrea, eccoci. Ciao. Volevo raccontarvi il mio incontro di persona con Dario Vergassola. Aiuto, scusate. Adesso verranno fuori cose. Ti prego. Mandami i dati per un bonifico, qualsiasi cosa, però. Che è successo, Andrea? No, in verità, diciamo, molti personaggi famosi dal vivo poi non sono così simpatici, no? Belli. Invece ho avuto l'opportunità di incontrare Dario al ritorno da un viaggio. Ero da Bologna, sbagliai il treno, invece che tornare a Firenze andai a Milano. Scesi a Milano e trovai Dario alla stazione, gli raccontai cosa mi era successo e gli chiesi l'autografo, e lui mi fece l'autografo che ho sempre e mi scrisse: fatti meno pippe, Dario Vergassola. Non, cioè, però è perché sono cose di cui so di cosa parlo, quindi è l'unico argomento di cui posso dispensare delle pillole. Vabbè, capisci? Che momento di Radio Verità. A parte questo, che sono contento. Se volete vi racconto la mia auto, mi autodenuncio. Sì, è il momento, certo. Dario, perché abbiamo una sigla straordinaria. Ci siamo messi lì. Aspetta, senti. Deforbizziamoci. Cioè, ti rendi conto? Ci siamo messi lì 10 giorni. Abbiamo lavorato a lungo. Come per quando questa... sessualmente uno dice faccio e poi viene fuori una cosa così. Vabbè. Il tuo momento. Flash. Purtroppo è così. Due cose mi sono venute in mente, ma le dico col cuore perché è giusto che le dico, e poi è giusto anche così condividere. Poi uno così mettersi a nudo, soltanto metaforicamente. Cioè, una è questa: io sono di quelli che ho il cane di mio papà e odio quelli che portano in giro i cani e fanno fare i bisogni per strada ai cani, non li sopporto, potrei uccidere il padrone, chiaramente non il dove cane. Dove li devono far fare, scusa? Raccoglierli. L'altro giorno vado a camminare sono stato un po' per funghi, per castagne, ho trovato una roba che ho trovato uno che ha tirato su la roba del cane, l'ha messo in un sacchetto e ha buttato via il sacchetto nel bosco, cioè capisci che tanto voleva lasciarla lì, ma comunque io insomma sono di quelli che molto accanito e rompo le scatole. Un giorno, devo dire la verità, il cane l'ha fatta tra l'erba e il marciapiede, era un po' un casino perché era un po' complicato, e io ho fatto proprio finta e mi sono reso invisibile. Una parte di me diceva: sei uno stronzo, sei una merda. Però vai. E l'altra parte dicevo: no, non lo voglio. Sono andato via, stavo fuggendo da me stesso. Io mi sono reso conto che era una roba che mi sono uscito dal mio corpo, mi sono guardato e mi sono fulminato. E l'altra mattina, camminando per Corso Cavour, giuro, questa mi ha lasciato anche un po' perplesso. Ho beccato, c'erano due signori che chiedevano l'elemosina, forse non si chiedono l'elemosina, abbastanza, però un briaghelli, anche un po' con la bottiglia, insomma un po' non, non, non dignitosi, diciamo, davanti a loro c'era piegato, questi qua erano talmente fuori tra di loro che mogognavano tra di loro sdraiati per terra, e davanti a loro c'era un, c'erano 5 euro piegati. Io sono passato a stare col cane, io sono, che sono ligure, dalla mia parte dico, ho preso, guardato e detto adesso, e c'è stato in questi nanosecondi che ti passano per la mente dove vedi tutta la tua vita, allora, queste cose qua te l'ho preso, ho detto adesso li do a questi due qua, certo. E invece me li sono messi in tasca e ho tirato dritto, lo capite? È ligure, è una brutta persona, dite gli stereotipi, ma fatto venire, e dentro di me ho detto ma perché, ho detto magari c'ho la nipote, voglio fare un regalo a nipote, perché anche la giustificazione si è data, la nipote, i bambini metti in mezzo, insultatemi, ho fatto due cose brutte, la vogliamo, sì, sono due cose brutte. Vogliamo sentire Massimo, che invece ci ha scritto una mail a funamboli@radio24.it. Massimo, ciao, buongiorno. Niente, è svenuto. Oggi Massimo è insieme a quell'altro. Dopo i 5 euro di ragazzo ha pensato meglio attaccare. Niente, è caduto. Davanti al mendicante gli ho rubato. Dopo che ha rubato i soldi al mendicante, basta. Hai rubato i soldi al mendicante. Dobbiamo dare a Dario la patente di defurbizzato. Non credo che gliela possiamo dare. Questa volta è veramente un sacrilegio. No, come la finanziaria. Non l'ho rubati a loro. Erano da un metro davanti. Non l'hanno visti. Questi erano talmente embriagoni tra loro due che non l'hanno visti. Ma questo ti puoi mettere in politica? Certo. Erano anche pensionati anziani. Hai rubato dai pensionati? Oppure erano persone di mezza età? Uno ho trovato a strangolarlo col catetere, l'altro l'ho scappato e sono uscito. Arancia meccanico, mandarino meccanico adesso, d'ora in avanti. Sai. Vabbè, terrorizzato da questi messaggi e da queste defurbizzazioni, insomma, di Dario Vergassolo, anche il nostro Massimo, che ci ha contattato, ha mandato una mail, ha detto chiamatemi, sono pronto, ha risposto, era in linea, ha messo giù e basta, è scomparso. Scusi, ma come l'altro di prima, giustamente. Sono ma io. Che Vergassolo fa questo effetto a tanti, Milan, si vede che tu non lo frequenti abbastanza. Certo. Non sai quanta gente scappa a gambe levate quando passa lui. Quando diciamo giochiamo alla bottiglia si buttava giù di giù dalle finestre, sì, c'era qualcosa che non... Vabbè, allora facciamo così, diamo la patente di defurbizzazione al nostro Dario Vergassola, che ci ha raccontato queste due cose abbastanza... Ma voglio anche la sigla, però. C'è la patente, senti bene, la patente di defurbizzato. Ascolta, senti. Bene, okay. La sigla. Defurbizzato. Abbiamo messo... il timbro. Messo anche sta il timbro. Sbellicando, si sta letteralmente sbellicando dall'orrore. La radio è velocità, capisci? Allora è giusto fare questa roba. Esatto, esattamente. Però il timbro... È fantastico. L'hai colto il timbro di defurbizzato. Si sente bene, te lo vuoi risentire bene? Sì, no, sentiamo. Tipo lettera scavata al contrario, cioè defurbizzato. Defurbizzato. Beh, l'hai fatto bene. È molto da radio giovani, però. È molto da queste radio. Sì. È molto young. Molto milanese, molto roba. Non allora, Massimo, l'abbiamo recuperato, però. Attenzione, Massimo, eccolo qua. Massimo, no, non c'è. Niente. È scomparso. Andiamo al traffico. Desistiamo. Funamboli. Allora, è ufficiale. Io che volevo leggervi un messaggio che è appena arrivato. Aspetta. C'è scritto fate cantare Veronica, altrimenti vi abbandono. Il babbo di Veronica ha firmato. Allora, esatto, il babbo di Veronica. Abbiamo recuperato Massimo, il defurbizzato, che ha fatto la furbata di metterci giù il telefono. Massimo, adesso devi essere non sintetico, devi essere, volare, Massimo. Volevo salutare anche Vergassola perché ci ho avuto l'incontro anche con lui. Ti ha incontrato. No, senti, eravamo al Mandela Forum, lui era negli anni 90. Sì, lui tu facevi il presentatore, c'era Miriam Makeba e Vinicio Capossela, te lo ricordi? Guarda, ti direi di sì, ma se io sei sulla fiducia. Massimo, hai fatto però grandi ospiti, non so cosa c'entravo io, però. No, tu presentavi, io ero nel gruppo che si chiamava Bizantina, non so se ti ricordi, eravamo un gruppo che suonavamo anche noi lì. Ragazzi, ma questo è veramente altro, che ricordo, caramba, ma che sorpresa. È andata bene comunque. No, ma lui non ricorda nemmeno il nome della moglie, Massimo, quindi perché non preoccuparti. No, ascolta, no, la cosa, la battuta bella che mi ricordo, sai, guarda, ci disse, perché fu il periodo che era Moana Pozzi che era morta da poco. Non voglio saperla questa cosa qua, no? No, ma Massimo, no. Allora, attenzione, io ho detto che devi volare. Cioè, è già quasi scaduto il tuo tempo per raccontarci quando hai fatto il furbo. Quindi diccelo, per favore, perché sennò... Allora, no, niente, io praticamente quando ero studente universitario, primi anni 80 a Firenze, squattrinato, c'era un bar nella zona pedonale di via Cazzaioli, io sono calabrese però, ero fuori sede naturalmente, c'era questo bar dove tutti i giorni, i primi tempi facevo colazione e pagavo. Una volta distrattamente non ho pagato Non mi ha detto niente a nessuno, è stata una cosa normale. Che bello. Da quel giorno in poi praticamente facevo tutti i giorni colazione senza pagare e poi andavo via salutando pure. Ciao Giacomo, ciao! Come? Ma come? Ma è nessuno... Anche un comportamento arrogante, fastidioso. Cioè è nessuno, no, è... nessuno che chiedeva niente, nessuno... Niente, niente, niente. Veramente. E no, quanto hai rubato? Fiducia. E quanto hai rubato? Quanto hai rubato? Un ma conto... senti, un annetto tutto. Un annetto. Un annetto. Un annetto. Paio di euro al giorno. Insomma, 700 no. euro. Quindi adesso non rispondevi più perché ti sei vergognato, Massimo. Hai no, detto forse non no, lo racconto. No, più che altro ce l'ho sulla coscienza, vorrei andare a pagarlo questo bar. Perché il bar c'è ancora. Oh, oh, questa è una bella. Questo è un bel gesto. Allora adesso tu ci ritelefoni, Massimo, non appena sei andato dal a saldare bar, il conto. Dal ti, bar diamo, ci telefoni. Ti diamo i dettagli. Però, Massimo, noi abbiamo questo grande potere salvifico. Con questo timbro è grazie tutto condonato. Defurbizzato. Beh, veramente, veramente una roba. L'antiomeopatia. È l'indulgenza plenaria grazie a un colpo di mitragliatrice. Tu, Dario, sei contento di essere venuto se non altro per questo, per aver sentito la sigla ed essere stato timbrato. Questa è la cosa che io volevo capire. Pensavo ci fosse proprio un gruppo che lo fa. Non rubarcela, non rubarcela perché abbiamo l'ha pagato la SIAE, copyright e tutto. Sai che io ero talmente abbelinato da ragazzo che a parte, abbelinato, notare l'espressione. A parte che io racconto sempre che mi hanno mandato per cicche, ci sono andato e ne ho fatto un sacchetto. Davvero? Sì, nel bar dove giocavano a boccette. Però quando sentivo la radio ero convinto, quando mandavano le canzoni, che lì c'era il gruppo che suonava. Oh, pensa un po' come eravamo che messi. Cucciolone. Pensa in provincia come eravamo messi. Comunque, capito? Il nostro Leonardo Manera chiude sempre la puntata con qualcosa. Ma oggi, no, oggi è il momento di fare il riassunto. Per quelli che non hanno sentito la rassegna stampa, quindi facciamo. Oh, grazie, va che io non sono riuscita a sentire il TG ieri, Leo. La rassegna stampa del giorno con tutte le news minuto per minuto. Ci sei, Peter Bescapè? Referendum Veneto-Lombardia, statuto speciale, provocazione, risponde Palazzo Chigi. Giunta straordinaria, Luca Zaia, 23 materie previste, trattenere 9 decimi delle tasse, modifica costituzionale, proposte irricevibili. Unico interlocutore, Premier Gentiloni, Roberto Maroni, Roberto Maroni passa a Presidente Gentiloni. Coinvolgimento Ministero dell'Economia, temi di negoziato, iniziare trattative, prossime elezioni politiche. Governo apre dialogo con la Lombardia, Renzi invita a non minimizzare, vera priorità, riduzione della pressione fiscale. Meglio di così non possiamo andare, a fondo sulla faccia Salvini, una via regolare. Pacifica, legittima, Forza Italia, Forza Italia, Forza Italia, Silvio Berlusconi, critico a Giorgia Meloni, non rincorrere egoismi, partecipazione, 20 punti di distacco tra Veneto e Lombardia, differenza macroscopica, rapporto interno Lega, Maroni, Maroni, affidamento su Forza Italia, Silvio Berlusconi, critica a Giorgia Meloni, Zaia, dimensione nazionale, legge elettorale, commissione affari costituzionali, Rosatellum 2.0, critico MDP, seduta Aula Senato, pregiudiziali, Banca Italia, nessuna accelerazione, nuovo governatore, forze politiche, guardano al prossimo governatore. Critico a MDP verso sottosegretario Boschi. Pesante conflitto di interesse. Di Maio, Renzi ha massacrato i risparmiatori. Palazzo Chigi, difesa senza affanno. Non entra nelle polemiche. Fattore tempo, quello più importante. Dettagli manovra 2018. Detrazioni fiscali. Proroga bonus mobili. Contratto statali. Novità, bozza manovra. Critico a MDP. Prossimo anno 2,9 miliardi. Rinnovo contrattuale. Pubblico impiego. Aumenti in mensile 85 euro. Aziende, una stretta. Spostamento profitti all'estero. Società calcio. Bonus per calciatori under 21. Non escluso. Nuova bozza manovra, ulteriori limature, adesivi Anna Frank, maglia Roma, società Lazio, prende distanze, ultra Lazio, curva sud, curva nord, curva destra, curva sinistra, critico MDP, immediata protesta, comunità ebraica romana, questo non è calcio, questo non è sport, giudice sportivo, autorità giudiziaria, inchiesta federazione calcio, insulti razzisti, dure reazioni, te vecchio, questo non è calcio, questo non è sport, condanna Raggi, condanna Zingaretti, critico MDP, Luca Lotti, colpevoli presto individuati, pochi sconsiderati, lo Tito, Corona dei Fiori, Sinagoga Roma, tifosi Lazio, è un complotto! Crisi Corea del Nord, Stati Uniti, aviazione militare, allerta B-52, amministrazione Trump, stato allerta, escalation tensione Corea del Nord, solo preparative, aumento crisi, no progetti per specifici eventi, misura precauzionale, fortezze volanti anatomiche, brividi, lungo la schiena, allarga inchiesta a procura Trapani, OMG soccorso ai migranti, coinvolte nell'azione Save the Children, porto di Catania, soccorso migranti, organizzazione traffici in Libia, immigrazione clandestina, sequestro nave, registri indagati, due giornate di squalifica condotta sportiva Leonardo Bonucci, capitano rossonero, gesto involontario, senza fascia capitano rende di più, tanta responsabilità, troppa responsabilità, eccesso di responsabilità, disastro, crollo, caporetto, game over. Direi che il nostro notiziario c'è tutto Dario. Ma non è più Manera, ma questo è posseduto. Manera posseduto. Noto che oggi, oltre a critico MDP, c'è anche critica Giorgia Meloni. Sì, sì, che sì. È un altro intercalare, eh? Hai visto, in questi giorni è sempre critica Giorgia Meloni. Certo, infatti, era un altro dettaglio interessante. Stretching alla lingua, come fa a fare questa roba qua? Che io sono lo sappiamo, però adesso i trentini andavano a Trento. Esatto, esattamente. Però adesso uscirà da Manera. Adesso alla fine della trasmissione uscirà da Manera e quindi andrà tutto a posto. Però mi pare che ci fosse tutte le notizie. Tutto, stamattina sentendo la sintesi è abbastanza chiara. Io sì. A questo punto la rassegna stampa non la finirei nemmeno dopo. No, perché date le notizie? Perché c'è il 24? Cioè, perché fate il notiziario? Basta, no, ma infatti il GR non credo che serva dopo. Fatelo presente lì. Perché... alla fine sono solo due le cose. Critica Giorgio Meloni e critico MDP. È contento, lo carica bene. Senti come parte, ci carica dentro tutto. No, bene. Tra l'altro, Dario, noi ti ringraziamo tantissimo, Dario Vergassola. La politica attuale è un'ultima chiosa, la guardi con che occhio? Tutto quello che sta succedendo? Beh, la guardo con la cosa che volevo chiedere, che questo scontro, lo dico a Manera, perché lo scontro tra PD e il governo per Banca Italia è venuto su una chat di WhatsApp. Vi risulta che Gentiloni abbia minacciato di abbandonare il gruppo? È una stupidaggine così, però non so cosa dire. Allora, guarda, chiudiamo con Andrea da Milano, che è un ascoltatore che è lì, noi abbiamo parlato molto di pensionati. Che ci vuole dire Andrea che ci ha chiamato prima? Che un giorno mi ha trovato in treno. No, non credo. Ha incontrato Vergassola. Buongiorno. No, è probabile. Ha mai conosciuto Vergassola, Andrea? Buongiorno. No. Sessualmente. No. Andrea non ha mai incontrato Vergassola? Ecco, è proprio questo il punto, non l'ho mai incontrato. Vabbè, Che fortuna. Lo vedi che allora un problema ce l'ha, fortuna. Andrea. Può dire, bene a chiamarci. Può dire non lo sapevo stesso. Non sapevo nemmeno che fosse ospite, quindi mi scuso. Quindi stavi buttando giù. Vabbè, diciamo, cioè l'ultima ora hai fatto altro. Mi ha fatto ridere, ma non l'ho mai incontrato. Va bene, Andrea, no, era una battuta comunque. Recupererai, Andrea. Ecco, benissimo. Che ci vuoi dire in 20 secondi? Allora, 20 secondi. Volevo soltanto dirvi che ho sentito molte critiche sull'Italia, le solite cose, insomma, sì. Si va all'estero perché è meglio andare all'estero che stare in Italia. Bene, io sono uno di quelli che è stato all'estero 14 anni e poi è tornato in Italia. Mi trovo benissimo, mi do da fare. Dove stavi? Ho girato un po', ho fatto Lussemburgo, Francia, diverse zone. Londra, ho vissuto anche per 10 anni a Monte Carlo, ma sono voluto tornare in Italia. Sono voluto tornare in Italia perché... e non mi hai incontrato per incontrarmi. No. Quindi tu non mi hai incontrato piace. Vergassola perché eri in giro, semplicemente perché non eri in Italia. Non vabbè, ci sono comunque la morale è: si sta bene anche da noi. Questa la riassumiamo nell'estrema sintesi che la radio ci impone. Ringraziamo Dario Vergassola, così come ringraziamo tutti i funamboli che tornano domani alle 9. State con noi, potete riascoltare o il giornale radio di Manera o quello vero che arriva tra poco. Grazie, o il podcast allegri. E comunque critica Giorgia Meloni.